America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Finalmente qualche buona notizia dal fronte finanziario a Wall Street. L'indice Dow Jones ieri ha trovato l'energia e la forza per portarsi in avanti, un rialzo del 2,76%, e quindi siamo tornati al di sopra di quota 10.172. E ci sono state ovviamente alcune notizie importanti. Beh, intanto un rafforzamento dell'euro che è risalito al di sopra di quota 1,21 e quindi così ha dato l'impressione, l'idea di aver trovato un suo punto di stabilizzazione. Questo dopo che la BCE ha alzato le previsioni sulla crescita dell'anno in corso. Poi ci sono state anche delle notizie positive sul fronte americano, perché i sussidi, le richieste di sussidi per la disoccupazione sono diminuiti al di là di quello che ci si aspettava, e infine anche buone notizie in generale sul fronte energetico. Tutto questo ha contribuito a questa risalita. Ma oggi in borsa l'attenzione è per l'introduzione dei nuovi circuit breaker, i fusibili che ha escogitato la Security Exchange Commission, l'equivalente della nostra Consob, per evitare che ci sia un meltdown di vendite, come è successo qualche settimana fa quando ci furono vendite a catena e il mercato sembrava non avere più alcun punto di riferimento. I nuovi freni automatici saranno in vigore appunto a partire da oggi in una forma così sperimentale per 6 mesi. Le nuove regole prevedono che le borse vadano a sospendere brevemente le contrattazioni di alcuni titoli che sono sotto attacco e che stanno magari registrando delle oscillazioni troppo forti. In particolare si bloccheranno per 5 minuti le contrattazioni di singoli titoli il cui prezzo ha subito una variazione di almeno il 10% appunto nei 5 minuti precedenti. Speriamo che questo possa portare un po' di calma ai nervi degli operatori quando ci si trova in situazioni di tensione, come succede sempre più spesso negli ultimi giorni. Ecco, c'è stato anche un sollievo della BP. Vi dicevo, gli energetici tutto sommato non hanno fatto male, e il titolo della British Petroleum ha guadagnato quasi il 10%, anche se ovviamente la capitalizzazione resta quasi dimezzata, insomma una perdita fortissima dopo la crisi che è esplosa nel Golfo del Messico. Ecco, questo non toglie forza alle voci che ho ascoltato a Wall Street negli ultimi giorni, quelle secondo cui ci sono banchieri d'affari sempre più movimentati, interessati a cercare di capire se la British Petroleum poi non dovrà procedere con una fusione o addirittura essere acquistata da un'altra delle grandi. Si fanno i nomi ad esempio della Exxon. Quindi la coda finanziaria di questa crisi ambientale potrebbe dunque avere un ritorno anche a Wall Street in termini di creazione di un nuovo megagruppo, e sono sicuro che chi si compra, se mai dovesse essere disponibile, sottolineiamolo, ma chi riuscisse a comprarsi la BP alla fine farà un grande affare. Dopo le polemiche all'ONU per il voto contrario di Turchia e Brasile alle sanzioni contro l'Iran, ieri c'è stata un'altra piccola polemica per un video che ha circolato, presentato all'Associazione dei Corrispondenti su richiesta di Culture of Resistance, un gruppo di attivisti che era sulle navi che facevano parte del convoglio che voleva rompere il blocco navale israeliano. L'idea era che questo video dovesse smentire il video israeliano che dimostrava come c'erano attivisti armati a bordo, però sembra che non sia andata così. Abbiamo con noi Giampaolo Pioli, corrispondente del gruppo Monti, La Nazione, il giornale Il Resto del Carlino, un vecchio amico. Allora Giampaolo, nel video che tu hai visto c'erano davvero delle smentite al video israeliano? Ah, in realtà no, il video fa vedere, dopo una lunghissima prima parte dove i viaggiatori, tra i quali molti giornalisti pieni di computer, di telecamere, di macchine fotografiche eccetera, sono lì, cantano, pregano, fanno discorsi eccetera, mostra praticamente il momento dell'arrivo delle forze israeliane. Lo mostra in un modo confuso perché credo che là lì fosse al secondo piano della nave, quindi in una posizione difficile. È un video molto monotono per certi versi, dove si vedono gli elicotteri israeliani che fanno calare alcuni uomini della task force che poi prenderanno il controllo della nave. Si vedono altri feriti, non gravi, soprattutto. Ecco, una domanda, scusami Gianpaolo, sì. Non c'è il rischio da parte vostra come associazione dei corrispondenti di essere stati strumentalizzati da un'associazione che magari cerca di distribuire un video di parte e che quindi voi magari in buona fede lo volete far vedere ai vostri colleghi? Poi però dietro c'è il marchio delle Nazioni Unite, perché poi i portavoci dell'ONU hanno chiamato. No, io assolutamente no, noi abbiamo fatto un'infinità di iniziative, della presentazione di libri controversi o altro di diverso parere all'ONU. Questo è un video la cui responsabilità è solo ed esclusiva di Yara Lee e del Culture of Resistance. Poi c'è il passaggio finale di questa nave, che a un certo punto all'alba, dopo qualche ora, arriva nel porto israeliano. La cosa interessante è stata la conferenza stampa, secondo me, con Yara Lee, che ha risposto alle domande dei giornalisti, quali hanno chiesto come ti sentivi, cosa facevi, dov'eri. Ha dato un po' di descrizioni da testimone oculare, insomma, della vicenda, e si limita qui. Era una semplice conferenza stampa che molto spesso i corrispondenti dell'ONU hanno o fanno con personaggi che hanno la portata. Avrete colto il tono religioso di riflessione in questo coro che vi ho proposto. È un coro degli Amish, sono una specie di grande tribù che vive in Pennsylvania, vivono in fattorie dotate solo dell'essenziale, rifiutano il progresso, l'auto, la tecnologia, rifiutano persino le cure mediche, osservano una vecchia tradizione protestante anabattista nata in Svizzera nel 1500, si vestono con delle lunghe pelandrane, con i cappelli, insomma, arrivare nella zona degli Amish, qui poco lontano da New York, stiamo parlando forse un'ora e mezzo, quindi è come fare un balzo nel passato. Sono dei luddisti, immaginiamo dunque che, essendo luddisti e contro la tecnologia e contro l'inquinamento, dovrebbero così vivere una vita ideale per loro e per tutti. In realtà non è così. Perché la EPA, l'Environmental Protection Agency, l'agenzia ambientale americana, che oggi ha le sue belle preoccupazioni con l'inquinamento nel Golfo del Messico, si è dovuta preoccupare di un inquinamento provocato dagli Amish, i quali che cosa hanno fatto? Hanno scaricato nel corso di un anno 27.000 tonnellate di letame nelle acque cristalline della baia di Chesapeake, una delle baie più belle degli Stati Uniti, e a questo punto la EPA è intervenuta, ovviamente ha difficoltà a convincere i singoli agricoltori che forse è meglio che procedano con altri metodi, quelli rifiutano. Anche qui avremo una battaglia da inquinamento, questa volta non per un disastro ambientale, ma forse per un eccesso di zelo nell'ambientalismo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. A Manchester, 60 km a sud di Nashville, Tennessee, patria del country music, ci sarà uno dei festival più famosi d'America, il Bonnaroo Music and Arts Festival. 125 artisti, Flaming Lips, Double X, Gossip e Tori Amos. Ecco, proprio a lei, a Tori Amos, dedichiamo la canzone del giorno, Big Wheel, in onore di questo festival meraviglioso. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.